Nella prima parte della puntata vi abbiamo parlato un po' delle varie attività, dei vari eventi che potete trovare per il vostro Capodanno. Abbiamo pensato anche però, per approfondire questa possibilità, di fare un'intervista a una delle artiste che si esibiranno proprio a Capodanno e non solo. Stiamo parlando di Graziana Borciani, che sarà al Teatro Duse assieme a un altro po' di persone a Capodanno e qualche giorno dopo. Intanto, benvenuta Graziana. Ciao, ciao a tutti! Allora, tu parli a nome di un gruppo di artisti, insomma, che si esibirà appunto a Capodanno e anche l'1 e il 2 di gennaio al Teatro Duse. Ti va di raccontarci qual è, insomma, chi sono gli altri componenti, qual è il vostro progetto e poi anche come è nato questo progetto? Poi in un secondo momento parliamo di cosa ci aspetta a Capodanno. Allora, gli altri componenti sono Francesca Folloni, Lorenzo Scuda, Davide Calabrese e Fabio Vagnarelli. Allora, come nasce questo progetto? Ma guarda, il progetto Oblivion è nato per caso. Praticamente un signore ci chiese a Lorenzo e a Davide Calabrese di fare uno spettacolo sui Café Chantant. In realtà Davide Calabrese e Lorenzo Scuda erano andati per proporgli un musical, perché tutti noi veniamo dal mondo del musical, e lui ha detto: non me ne frega un cazzo del musical, fate uno spettacolo sui Café Chantant. Allora, visto che ci dava dei soldi, noi abbiamo detto: come no? E loro Come rifiutare, insomma, no? Dici. esatto. E in realtà, esatto, noi eravamo veramente squattrinati, loro erano squattrinatissimi perché noi non esistevamo ancora, quindi hanno deciso di approdare nel mondo del Café Chantante. E a un certo punto questo signore ha detto: ma guarda, se state cercando qualcuno per il gruppo, io c'è una cantante bravissima, non so se la conoscete, si chiama Graziana Borciani. Loro, ovviamente, come possiamo definirli? Molto para. Para, direi che si capisce, dai. Esatto, hanno detto: come no, la conosciamo? Ed era anche un po' vero, perché noi avevamo già collaborato, in qualche modo ci conoscevamo. Il nome Oblivion praticamente era il nome di un'associazione che era di Lorenzo Scuda, quindi questo ce lo siamo tenuti. Quindi ogni volta che ci chiedono: ah, ma perché vi chiamate Oblivion, pensando che sia una storia interessante, in realtà non lo è. E da lì siamo un po' nati, abbiamo fatto questo spettacolo sui Café Chantant e abbiamo continuato per anni a lavorare mesi e mesi per fare uno spettacolo che faceva due date all'anno, prove per spettacoli che andavano in scena uno o due repliche all'anno. No, ma ti spiego anche il perché, visto che ce lo chiedono sempre, noi siamo un po' cazzoni. A un certo punto, ad un'intervista, un giornalista, non faremo nomi, che ci chiese: ma allora, perché vi chiamate Oblivion? E noi gli abbiamo detto: perché è l'acronimo dei nostri nomi: Graziana, Francesca, Fabio, Davide e Lorenzo. Ora, tu trova una lettera di Oblivion, a parte la L di Lorenzo, e questa cosa è stata scritta, è andata sul giornale, capito? Quindi. Il controllo, insomma, del contenuto non è stato proprio preciso, devo dire, però è stata una bella risposta. Complimenti per l'originalità, devo dire. Allora, dicevi che comunque avete fatto tante prove negli anni per tanti spettacoli che vanno in scena appunto 1 o 2 volte all'anno. Direi che il repertorio è molto ricco a questo punto. Infatti, poi nella descrizione della serata di cui parleremo proprio oggi c'è anche la spiegazione di una rivisitazione delle vostre hit. Come avete fatto a fare questa selezione? Allora, la selezione, allora, visto che all'interno di questo Rhapsody ci sono sì cose che abbiamo estratto e riveduto del nostro repertorio per questa occasione, ma ci sono anche delle cose nuove. Quindi abbiamo cercato di prendere quello che esteticamente, musicalmente, testualmente poteva combinare meglio con la follia dei pezzi nuovi che non spoilerò, che appartengono a questo Oblivion Rhapsody. Quindi la scelta è stata anche in funzione di quello, ecco, perché appunto Oblivion Rhapsody non sono solo pezzi di repertorio, ma ci sono anche delle chicche nuove. Dall'inizio dello spettacolo, dove uno immagino, noi immaginiamo, si chiederanno: ma perché ci propinano questa cosa all'inizio? Questa cosa la capirete alla fine. Ok, quindi bisogna stare attenti e sul pezzo per tutta la durata dello spettacolo, cioè niente pisolini, niente abbiocchini, niente telefoni, tutte queste cose qua, giusto? No, questo assolutamente no, ma questo di solito non succede perché noi prevediamo il momento abbiocco e a quel punto mettiamo dei pezzi che ti fanno saltare sulla sedia, ecco, diciamo. Ma nel tempo, insomma, appunto, in questa lunga, lunga carriera, perché ormai, insomma, si parla di almeno 20 anni, giusto, di spettacoli che avete fatto assieme, com'è cambiato un pochino l'idea dello spettacolo negli anni e da dove avete preso ispirazione per ogni spettacolo? Beh, diciamo che l'idea degli spettacoli cambiano per come cambiamo noi, cioè noi per esempio che siamo tutti non proprio di primo pelo, diciamo, che noi eravamo giovani e facevamo spettacoli per vecchi, crescendo siamo diventati giovani. Quindi stando un po' sul petto, mettendo insieme un pochino quello che è il gusto di ognuno di noi, anche la crescita personale, perché ognuno di noi comunque anche personalmente ha cose, ha progetti nel singolo, e quindi porta comunque questi progetti nel singolo, portano comunque sempre nuove idee agli obbligher, e questa cosa ha fatto sì che nel crescere gli spettacoli attingano da quello che ognuno porta dentro sostanzialmente. Parliamo finalmente di questo spettacolo che vedremo tra pochissimi giorni qui al Teatro Duse, che si chiama appunto Oblivion Rhapsody. Mi sembra così a orecchio un po' un omaggio, no? No, ci ho visto giusto o no? Oblivion Rhapsody, beh, diciamo che sono tanti anni di nostra carriera, e come dicevamo prima, anche nella parte prima, attingiamo dal nostro repertorio, però rivisitiamo tutto, perché noi in questo spettacolo facciamo tutto en plan. Praticamente con una chitarra, dove l'unico vero reale musicista è Lorenzo Smude, che è quello che suona la chitarra, ma ci siamo giunti anche noi con tutta una serie di strumentini, tipo c'è un caon, c'è un flauto traverso, c'è un mini sax e tante altre piccole percussioni, insomma, che praticamente abbiamo deciso in questo spettacolo di fare anche tutto quello che non sappiamo fare. Ecco, di fatto ci siamo messi alla mercé, però abbiamo creato una nostra piccola cialtronissima orchestra, ecco, per questo spettacolo. Quindi sarà come un'orchestra di Capodanno anche un po', giusto? L'avevate pensata apposta come spettacolo che potesse andare appunto in scena in questo periodo per la chiusura dell'anno, o è stato un po' un caso? Guarda, noi non l'abbiamo pensato come spettacolo di Capodanno, ma all'interno, e anche qui uno spoiler, c'è un brano che diciamo che chiama un po' al trenino di Capodanno, ecco. Quindi alla fine era destino che noi lavorassimo anche a Capodanno. Vedi, dai, era un buon auspicio, mettiamola così, insomma. Non so se si potrà fare il trenino, però noi speriamo che effettivamente ci sia la possibilità. A distanza. Allora, per parlare del vostro lavoro, leggendo un po' appunto la scheda dello spettacolo, voi citate anche Calvino, mettendo come valori appunto del vostro lavoro anche la leggerezza, la rapidità, l'esattezza, la molteplicità e la visibilità. Io aggiungerei anche l'ironia. Insomma, questi valori per voi come si declinano appunto nel vostro lavoro? Beh, allora, l'ironia credo che sia l'ironia assolutamente. Non c'è uno spettacolo degli Oblivion, anche se comunque alterniamo momenti sensibili all'interno, dove perché è una cosa che ci appartiene un pochino, però l'ironia è alla base proprio della leggerezza, tutto quello che hai appena citato appunto. Tutto quello che abbiamo fatto abbiamo sempre cercato di farlo nel modo più leggero, preciso, perché noi siamo persone precise e non andiamo mai in scena improvvisate, però facciamo cose anche, diciamo, a livello culturale, non dico che sono persone molto più acculturate di noi, però cerchiamo sempre di dare degli spunti anche sulla cultura, perché noi nasciamo appunto come quelli che facevano le parodie dei classici, quindi non riusciamo ad esimerci dal mettere ogni tanto delle cose un po' elaborate, come anche in questo spettacolo appunto alla fine troverete. Però la cosa bella, diciamo, è che anche per chi magari non può accedere rispetto alla propria cultura a certi momenti dello spettacolo, comunque ne godrà per altri motivi, che possono essere musicali, che possono essere scenici, che possono essere appunto per l'ironia che comunque inseriamo anche nelle cose serie, che diciamo che tendiamo a volte proprio a rovinare certi pezzi della storia e della cultura, e per far sì che di poter, diciamo, un po' accedere, arrivare a tutti. È uno spettacolo inclusivo, quindi? Assolutamente, noi non escludiamo nessuno, cioè diciamo che il nostro pubblico va dai 3-4 anni fino ai 90. Allora, a me è scattata la curiosità, devo essere sincera, però ammetti che nel caso noi non riuscissimo a vederci a Capodanno l'uno o il due al Teatro Duse, che ricordiamo appunto è qua a Bologna, sarete ospiti qua a Bologna per queste tre date, questo spettacolo avrà anche un proseguo, insomma ci saranno altre date nei paraggi. Forse a gennaio saremo a Casal Grande, che però è in provincia di Reggio Emilia, per cui saremo a Fidenza, saremo non troppo lontani, però diciamo in zona Bologna, a parte febbraio che c'è Ferrari con Digoro, per il resto insomma ci fermiamo qui. Quindi allora sappiamo che a Bologna il 31, l'1 e il 2, ma anche il 30 dicembre se non sbaglio, esatto, giusto? Quindi per quattro date. Allora a questo punto io ti ringrazio tantissimo per il tempo che ci hai dedicato, ti facciamo correre a fare tutte le prove e assolutamente a muovervi per le prossime date, così tutti potranno godere appunto di questo spettacolo che ricordiamo si chiama Oblivion Rhapsody. E ti chiederei se vuoi salutare i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici e anche lanciargli un messaggio. Ma allora io saluto sempre volentieri i vostri ascoltatori e le vostre ascoltatrici lanciando un messaggio, diciamo ragazzi, stringiamo i denti, andiamo avanti, venite a teatro, andiamo a teatro e manteniamo alto, diciamo, il senso di leggerezza e di ironia nonostante il momento, diciamo, non sia ancora di quell'idea, ecco. Questa è l'unica cosa che mi viene da dire. Perfetto, ora speriamo poi di entrare in un 2022 un pochino più accogliente, più roseo, insomma, anche per la cultura, insomma, e anche un po' per la possibilità di andare a teatro e goderci con leggerezza, appunto, determinati spettacoli, determinati contenuti. Ti chiedo anche se per caso hai una canzone che ci vuoi dedicare. Ma guarda, anche qua volevo stare un po' nel mondo del musical, ma andare in una direzione un po' più rock, ma non mi viene in mente il gruppo che l'aveva fatta. Il pezzo è Sweeney Todd è un pezzo da musical praticamente, peraltro c'è stato anche un film con Johnny Depp, e c'era un gruppo che l'aveva fatto in una versione rock, ma che non si trova neanche più su Spotify. Quindi detto questo, lascerò a te la scelta del brano. Ah, che onere! Ok. A patto che sia molto rock. Cercherò il rock più cattivo che posso, ok? Quindi salutiamo le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori con questa canzone. E grazie ancora e ci vediamo prestissimo. Ci vediamo a teatro al 2, perché tu hai detto forse non riuscirò a venire, questa cosa mi fa pensare che hai già altro da fare. Ma quindi, su quattro date prometto che ne troverò una. Brava! Grazie mille e auguri a tutta la compagnia. Grazie a te, grazie mille, ciao. Ciao.